강 어휘 bellissimo bello buono diverso grande indipendente quello rotto santo amica appetito asilo bimba chiesa cielo domenica festa fiore giornata giorno lavoro macchina notte oggi paradiso piazza pomeriggio psicologo quadro ragazza ragazzo riposo sera stomaco studente studio studioso uomo vacanza Vaticano viaggio anche davvero dove in dentro 문형 chi è quel ragazzo? È Marco. È bello lui? Sì, Mario è un bel ragazzo. Che bella bimba! È anche buona. La macchina è rotta. Santo cielo! Deva. Buongiorno. Buongiorno. È una bella giornata oggi. Sì, è una bellissima giornata davvero. Sa dov'è Piazza San Pietro? Sì, è in Vaticano. Il Vaticano è un paese diverso dall'Italia? Sì, il Vaticano è un paese indipendente, ma è dentro la città di Roma. Una grande piazza in Vaticano è Piazza San Pietro. Grazie. Prego.